mona kata tanzambe nalinga kikofunda yo isoba sito saraponi oni mamo bali afalanga palobi yero kasambo oni mamo bali ashame ndangwa kozwa mosala akoko mamo bali abasinyoso. Thank you.